Componimento 63esimo del canzoniere di Francesco Petrarca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Volgendo gli occhi al mio nuovo colore che fa di morte rimembrar la gente, pietà vi mosse, onde benignamente, salutando teneste in vita il core. La fraile vita ch'ancor meco alberga, fu de begli occhi vostri aperto dono e de la voce angelica soave. Da lor conosco l'essero ov'io sono, che come suol pigro animal perverga, così destaro in me l'anima grave. Del mio cor, donna, l'una e l'altra chiave avete in mano, e di ciò son contento, presto di navigare a ciascun vento, ch'ogni cosa da voi m'è dolce onore. Fine del componimento.